Dottor Lepore? Sì. Buonasera. Aspetta, scusa un pochettino. Allora, a fine ti faccio. Ma tutti quanti la fai a poco, poi vediamo quello che possiamo comprare. 20-25. Però allora è ma ci farai eso. No, però nel frattempo. Scusi un minuto. Sì, prego. E poi c'è. Domanda a Lello che tiene. E va bene, ci andiamo, però. Dottor Lepore? Tutto quello che vuoi tu, fai, blocca Lello e procuratore? Dottor Lepore, mi sente? Sì, scusi, cara, abbiamo problemi economici. Okay. Mi scusi, procuratore, sono la segretaria del ministro Bossi. Il ministro vorrebbe parlarle un attimo, possiamo passarglielo? Non ho capito, il segretario del ministro? Bossi, Umberto Bossi, il ministro Bossi. Oh, come no. Posso passarglielo, grazie? Come no. Rimanga in attesa, grazie. Rimanga in attesa. Sì, senta un po', ma se lei sta in un ufficio della segreteria... Perché mi vuoi chiamare sul fisso che si sente meglio? No, guardi, non si preoccupi, il ministro Bossi è un po' di fretta, quindi è meglio che glielo passi subito. Va bene. Grazie, rimanga in linea. Prego. Dottor Lepore. Pronto? Buonasera, signor ministro. Buonasera, volevo solo dire quella telefonata di cortesia. Per dirle che il voto su Milanese non è stato un giudizio su richiesta di Napoli. I magistrati napoletani hanno lavorato bene, quindi non è un voto contro di voi. La mia volevo solo dire questo, Calderoli, la mia vuole essere solo una chiamata in cortesia per spiegare che il voto di oggi è un giudizio, non è un giudizio su richiesta, ecco. Senta un po', scusi signor Ministro, ma io ho capito poco perché tenevo la televisione accesa. Se mi ripete qualche cosa, perché sulla questione del giudizio a Napoli... Volevo dire, procuratore, che il voto su Milanese non è un giudizio su richiesta di Napoli o sui magistrati napoletani. Sì. Non è un voto... Perché c'è un problema di stabilità, Standard & Poor's, il rating e l'attacco speculativo contro il nostro paese. Allora volevo dire che non è un voto contro di voi, Napoli, no, ma magistrati di Napoli, sono bravi. Ministro, su questo ci può contare che non avevamo mai pensato che un voto contro la magistratura. Ci siamo resi conto che si tratta di un voto politico che tiene conto di tante e tante cose. Abbiamo fatto anche il federalismo fiscale, comunque grazie. Grazie dottor Lepo. Non si preoccupi, grazie a lei della spiegazione. So che non volevo dire che avete fatto, so che avete fatto opposizione per il trasferimento delle carte, delle richieste. No, ma già la CIP ha confermato il trasferimento, le carte già stanno a Roma da stamattina, quindi non ci stanno problemi. Non faremo opposizione su questo trasferimento, perché è una cosa politica. Va bene. Il tribunale del riesame cosa farà? Quello aspettiamo domani una decisione del tribunale, però non credo che influirà in qualche modo. Grazie a lei, signor ministro, grazie. Io sono a Roma purtroppo adesso, però a Napoli. Ho capito. Forza Napoli comunque. Forza Napoli, va bene. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederla. Non sei brillante, sono Calderone.